Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Giovani professioniste d'Italia all'estero, questo è il tema che affrontiamo oggi in una puntata tutta dedicata ai talenti al femminile. Del resto lo ha rilevato pure l'Istat, sono stati i giovani e le donne a pagare più di ogni altra categoria sociale la crisi economico-finanziaria. Non sembra esserci dunque sfortuna peggiore nel bel paese che nascere giovane e donna. Ma dove pretende di andare un paese così? Un paese che alla protagonista di oggi paventava un ingresso nel mondo del lavoro per fare fotografia. Fotocopie. Oggi rimanete all'ascolto, ci sono importanti novità sull'attuazione della legge contro esodo per il rientro dei cervelli. Ma torniamo alla storia della settimana. La cosa bella e che voglio sottolineare è che non mi sono mai sentita troppo qualificata per un lavoro, perché tutte le volte che raggiungevo sicurezza e dimestichezza in un lavoro voleva dire che ero pronta per quello successivo. Elena Alberti, 33 anni, è direttore finanziario per la filiale tedesca del secondo gruppo mondiale di concessionari d'auto americano. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio al notiziario. In apertura il via libera al decreto attuativo della legge contro esodo per gli incentivi fiscali agli under 40 che rientrano in Italia, finalmente annunciato martedì alla Camera a oltre 5 mesi dal voto parlamentare. Amedeo Sacrestano del progetto contro esodo conferma la piena operatività della legge. È certamente possibile utilizzare i benefici della legge già per coloro che fossero ritornati prima del 1° di gennaio e con decorrenza 1° gennaio di quest'anno. Chi può usufruirne? I soggetti che sono andati all'estero per lavorare e che hanno maturato un periodo di lavoro all'estero continuativo per almeno 24 mesi e coloro che sono andati all'estero per studiare, quindi per frequentare un corso regolare di studi e conseguire un titolo di studio che può essere un master o anche semplicemente una laurea. Facciamo un esempio concreto, giovane manager espatriato in Germania, nato dopo il 1° gennaio 69, trova un lavoro in Italia, cosa fa da lunedì? Sicuramente può utilizzare il beneficio, studia con attenzione la legge, credo che avrà necessità di farsi assistere da un esperto perché ancora ci sono dei punti che possono avere un'interpretazione ambigua, certamente può rivolgersi magari all'associazione contro esodo. Può anche rivolgersi al consolato come prima tappa? Sicuramente sì, ma credo che sarà anche necessario rivolgersi ad un esperto fiscale. L'Italia non è un paese per giovani, così il 98% degli utenti di studenti.it, portale web che ha lanciato un sondaggio sulla qualità della vita e le opportunità che il bel paese offre ai suoi giovani. Solo per il 2% in Italia si vive bene ed esistono opportunità, ben il 42% dichiara di voler andare all'estero. E aumentano i laureati che rispetto al 2004 decidono di varcare le Alpi e l'Atlantico per l'impossibilità di trovare un'adeguata collocazione in patria, lo afferma il 13° profilo dei laureati italiani di Alma Laurea, secondo il quale il 12% dei nostri dottori vanta esperienze di studio all'estero. A incentivarne la fuga contribuiscono pure i salari. Secondo l'Istat, lo stipendio medio di un neo assunto in Italia è di 900 euro, quasi 400 euro sotto la media generale. Le donne hanno retribuzioni più basse del 20% e l'Istituto di Statistica accusa l'Italia si colloca all'ultimo posto tra i paesi europei per le risorse destinate al sostegno del reddito. Oltre la metà sono assorbite dalle pensioni, solo il 2% va ai disoccupati. Sempre sul fronte stipendi, per Alma Laurea, a 5 anni dal titolo, gli stipendi netti dei laureati variano dai 1.089 euro degli psicologi ai 1.529 degli ingegneri. Interessante ricerca della Camera di Commercio di Monza e Brianza, secondo la quale pur nelle difficoltà occupazionali dei giovani italiani sopravvivono realtà provinciali in cui gli under 30 hanno migliori occasioni di lavoro, come a Prato e a Pistoia, le province col più alto indice di vivibilità giovanile in Italia, terza la provincia di Savona. La Commissione europea ha chiesto al nostro paese di riformare il mercato del lavoro, rendendolo più flessibile per favorire l'occupazione di giovani e donne. Oltre 7 milioni di under 34 vivono ancora a casa con i genitori, lo afferma un'indagine Sunia CGL, secondo cui il diffuso precariato e i bassi stipendi impediscono una vera emancipazione. Ben il 60% degli under 35 percepisce un reddito mensile inferiore ai 1.000 euro. Uno su due è precario, il 44% è laureato. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero, oggi vi segnaliamo. Una Communications Manager ad Eurometo a Bruxelles, scadenza per i CV 20 giugno, info su eurometo.eu. Un e-learning and multimedia developer all'Università delle Nazioni Unite di Bonn in Germania, scadenza per i CV 12 giugno, info su unu.edu. E infine un ricercatore biomedico al Civil Service di Salisbury in Gran Bretagna, scadenza per i CV 8 luglio, info su civilservice.gov.uk. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta in Germania per una vicenda tutta al femminile che ben ci fa comprendere quanta strada occorra ancora fare in Italia verso le pari opportunità.

Bisogna adattarsi a quella che è la realtà dei fatti italiana. Gli stipendi e i benefit non sono assolutamente competitivi con quello che puoi trovare all'estero in molti paesi. Posti di responsabilità sono pochi e a disposizione di pochissime persone. E possibilità di carriera, possibilità di crescita in generale diventano molto difficili. Insomma, bisogna imparare a rassegnarsi più che a riadattarsi. È un altro verbo che non ci piace, rassegnarsi. Tu sei ingegnere. La tua categoria viene annoverata tra i costruttori di futuro. Eppure, secondo alcune recenti indagini, sono proprio i giovani ingegneri i più propensi a lasciare l'Italia. E basti aggiungere che quasi un neolaureato italiano su tre all'estero è ingegnere secondo Almalaurea. Che paese è un paese che fa scappare i suoi costruttori di futuro, che progetta e sviluppa sempre meno? Ma è un paese che non vuole crescere, che non riesce a crescere, che non investe sulle proprie risorse. Penso che sia una questione di mentalità in linea di massima. Persone capaci in giro per l'Italia ce ne sono tantissime, gente che voglia fare ce ne sono tantissime, e lo dimostra il fatto che quelli che vanno all'estero riescono assolutamente ad avere successo. Infatti non è colpa dei nostri giovani ingegneri, per paradosso. E perché sempre più giovani ingegneri scelgono di lasciare l'Italia? E soprattutto, secondo te, perché non c'è un flusso inverso? Perché il bel paese non appare un paese attraente per gli ingegneri stranieri? È difficile per uno straniero adattarsi a quelli che sono gli stipendi da noi e tutte le limitazioni che vanno di conseguenza. Non c'è proprio una motivazione solida, a meno che qualcuno venga da un paese un po' remoto, terzo mondo o cose del genere. È difficile che uno veda l'Italia come un posto dove poter crescere. Tu non pensi più di tornare? Mi piacerebbe molto, ho lasciato l'Italia. L'Italia rimane nel mio cuore, proprio di questi giorni che ho avuto contatti anche con degli headhunter in Italia, ma la risposta è sempre la stessa, è quella che è andata anche mia sorella. Grazie ad Alberto Alberti, in bocca al lupo. E domanda di rito per Elena, per chiudere: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie d'uscita a un espatrio? Data la mia esperienza, il mio consiglio non può essere che just go, quindi fai le valigie e parti. A chi ha l'opportunità e il coraggio di farlo, io dico di partire. Lo dico con un po' di amarezza perché io adoro l'Italia e quando la si guarda dall'estero da italiani si ha molta nostalgia, ma ci si scontra sempre con la consapevolezza di non poter ritornare. E siamo giunti allo spazio dedicato alle associazioni e alle iniziative che si occupano di quella che possiamo definire come la nuova emigrazione. Oggi restiamo negli Stati Uniti, dove nel 2009 è nata l'associazione cappello delle nostre principali organizzazioni d'oltreoceano. Si chiama GIPI, Gruppo Imprenditori e Professionisti Italiani. Marco Marchese ne è cofondatore. GIPI nasce per andare oltre l'italianità stereotipata, e cioè quella dell'individualismo spinto all'eccesso, e quindi la creazione di mille piccole associazioni, congregazioni e quant'altro. Quindi GIPI è l'associazione delle associazioni, noi vogliamo che sia, ma già lo è, e quindi raccoglie sotto di sé ormai da un anno e mezzo a questa parte e sempre di più tutte le varie associazioni che ci sono negli Stati Uniti, o quantomeno le più importanti. Se sommassimo tutti questi associati arriveremo a oltre 7.000 persone. Un grande cappello dentro il quale c'è anche una buona fetta, no, di quella che è la nuova emigrazione, giovani, professionisti, qualificati, con laurea postdoc che vengono negli Stati Uniti. Allora, cosa li spinge a venire oltreoceano normalmente? Io innanzitutto non ho una buona fetta, ma direi la quasi totalità, sono assolutamente d'accordo con quello che tu dici. Io dividerei, diciamo così, in due fasce. I giovani, veramente giovani, e quindi mi riferisco a corsi post laurea, e i meno giovani, e cioè i manager che vengono trasferiti all'estero, quindi Stati Uniti, nel mio caso New York, la maggior parte di noi forse direi sono basati in New York, e che poi decidono di rimanerci permanentemente. Il motivo: nel caso dei meno giovani sono occasioni di lavoro che poi si concretizzano meglio anche in stili di vita. Ci troviamo molto molto molto bene negli Stati Uniti. I più giovani direi che è una cosa forse anche più semplice, cioè da quel che capisco, visto che ho ancora molti contatti, le scarse, veramente scarse opportunità che ci sono in Italia in termini di investimenti sui giovani. Leggo numeri sulla disoccupazione anche molto qualificata, altissimi. Qui in Mediterranean Shipping Company, dove io sono a corporate controller, abbiamo molto spesso tesisti, borsisti italiani qualificatissimi che dicono di non trovare pressoché nulla di interessante in Italia, purtroppo. Quindi è un'ondata crescente, soprattutto per è un'ondata crescente, e a mio avviso sarà sempre, purtroppo lo ripeto perché io sono italianissimo, sempre più crescente. Cosa offre l'America che qui non trovano? Anzitutto un'organizzazione sociale complessiva decisamente maggiore. In termini più ampi di prospettive di lavoro e di vita, sicuramente è ancora vero che impegnandoti seriamente puoi ottenere dei discreti o anche eccellenti risultati. Torniamo a GIPI, quali sono le attività di questa associazione e come si sta anche espandendo? I tre messaggi che io do per noi qui è coordinamento, quindi unire le forze, visibilità, perché se ti coordini sei ovviamente più visibile, e opportunità attraverso una serie di iniziative, incontri con grossi nomi, ma anche occasioni e tematiche molto più operative, seminari, networking, colloqui di lavoro e quant'altro. E